Chi non riesce ad amare fa musica e beve whisky, che la noia poi sale ora che le parole no, non voglio dire più niente, ogni tanto mi attraversano pezzi di fotografie e tu ci sei sempre ancora e ora osservo le tue labbra che cantano le parole di questa canzone, danno i brividi, sai, sei perfetta più di arriviamo negli stessi posti ma con tempi diversi, io e te ci incontreremo nei cessi in ginocchio a vomitare i nostri arcobaleni, mentre pensa quel tuo vecchio amico che è vecchio ora che ha capito tutto, osservo le tue labbra cantare le parole di questa canzone, mi dai i brividi. Sai, e sei perfetta, più di una hit su Spotify. Piove sporco in testa e battezziamo ogni giorno noi la nostra tempesta.